Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi vi portiamo a Parigi. Nella Ville Lumière andremo per raccontarvi un interessante progetto imprenditoriale che tocca molto da vicino voi italiani oltre confine. Una puntata, quella odierna, che riunirà ben tre dimensioni primarie per tutti i potenziali o futuri expats all'ascolto. La capitale francese, uno dei maggiori poli di attrazione in Europa per chi cerca un percorso professionale all'estero, il suo ecosistema di startup, magari meno noto rispetto ad altre capitali europee ma ugualmente molto vivace e attivo, infine i bisogni e le esigenze in termini di prodotti made in Italy, dei quali i nostri connazionali provano grande nostalgia. Le segnalazioni della collega Francesca Barbieri su bandi e opportunità aperte all'estero per giovani desiderosi di approfondire la propria formazione internazionale apriranno la puntata, che si completerà con le segnalazioni di Eures Italia relative alle iniziative lavorative del momento in Europa e gli eventi collegati per poterle ovviamente scoprire. Chiuderemo la trasmissione segnalandovi un'interessante iniziativa dell'Emilia Romagna che da qualche tempo sta andando a scovare i suoi giovani talenti emigrati per coinvolgerli in iniziative di networking con la rete regionale di ricerca e innovazione. Ne parleremo con la responsabile del progetto. Tempo di partire per Parigi, la capitale francese vi aspetta per una nuovissima puntata di Generazione Mobile. Lo spunto della settimana arriva dall'Expat City Ranking dell'organizzazione Internations. A fine 2019 la classifica delle migliori destinazioni mondiali per gli emigrati vedeva ancora in testa Taipei, seguita da Kuala Lumpur, migliore città dove insediarsi, e con Ho Chi Minh al terzo posto, prima però per finanza e alloggi. Quarta Singapore, quinta Montreal, poi un drappello di città europee, Lisbona, Barcellona, Zug, L'Aia e Basilea. A sorpresa, nelle ultime posizioni e in fondo alla classifica troviamo Roma, Milano, Parigi, San Francisco, Los Angeles e New York. Toolbox. A Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utile a orientarvi nel mondo del lavoro internazionale, tornano i consigli pratici del Sole 24 Ore. Ascoltiamo dunque cosa ci riserva il menù odierno insieme alla collega Francesca Barbieri. Buon pomeriggio, Francesca. Buon pomeriggio a tutti. Francesca, oggi ci porti novità freschissime e molto importanti su una guida che è in uscita a brevissimo, una guida del Sole 24 Ore, nella quale si parlerà di studio, tirocini e lavoro all'estero. Spiegaci meglio. Sì, esattamente. Allora, il 20 di febbraio saremo in edicola con la guida Studiare all'estero, che prevede tutta una serie di approfondimenti per i ragazzi che sono intenzionati a studiare ma anche a lavorare all'estero. Oggi però hai deciso di portarci anche qualche piccola anticipazione, poi ovviamente tutti i dettagli li troverete all'interno della guida, ma ci sono anticipazioni succose e molto significative. Partirei con le borse di studio che si troveranno dentro la guida. Sì, esatto, avremo un capitolo dedicato alle borse di studio e in particolare a quelle che sono cofinanziate dal nostro Ministero degli Affari Esteri insieme ai governi degli altri stati del mondo. Quindi avremo una panoramica delle principali borse, che sono circa 700 opportunità ogni anno, con degli approfondimenti su alcuni paesi, con tutte le indicazioni su come fare per candidarsi, su quali sono i requisiti, quali sono le destinazioni. Non ci saranno solo borse studio, anche se saranno probabilmente, immagino, una parte preponderante di questa guida, ci saranno anche opportunità di stage e tirocinio. Qui cosa ci puoi anticipare? Vi posso anticipare che anche qui avremo tutta una serie di schede con tutte le informazioni di servizio, con le opportunità di formazione ma anche di stage e tirocinio nelle organizzazioni internazionali, quindi mi riferisco all'ONU, alla NATO, alle istituzioni dell'Unione Europea. Sempre nella guida avremo poi dei pezzi di approfondimento realizzati dai nostri colleghi esperti degli esteri e dei nostri corrispondenti sui principali paesi, quindi dagli Stati Uniti alla Germania, passando per il Regno Unito. Avremo la descrizione di come funziona il sistema universitario all'estero e quali sono i requisiti per gli studenti internazionali. Allora, cercatevi bene in rosso la data di giovedì 20 febbraio, che è la data in cui uscirà questa guida, soprattutto se avete voi stessi o i vostri figli un interesse a sviluppare una carriera dal profilo internazionale, è uno strumento veramente imprescindibile. Francesca, ti chiedo solo come ci si potrà procurare questa guida. Sì, la guida è in edicola il 20 di febbraio in allegato al Sole 24 Ore, pagando 50 centesimi centesimi in più rispetto al costo del quotidiano. Il testimone. Il testimone della settimana è un imprenditore 35enne residente a Parigi, la cui idea di azienda ha molto a che vedere con le esigenze dei nostri expats. Ma Flavio ha molto da dire e tantissimi consigli da regalare anche sull'ecosistema startup parigino, per chi tra voi avesse una mezza idea di portare il proprio progetto di azienda innovativa oltre Alpe. Buon pomeriggio, Flavio Nappi. Ciao a tutti, ciao Sergio. Laurea in economia aziendale a Torino, Erasmus in Spagna, 3 anni di master in management alla Business School ESCP Europe, una formazione internazionale. La tua, quale valore aggiunto ti ha portato, Flavio? Sicuramente le lingue, che sono una porta d'accesso ad ogni opportunità che si possano trovare all'estero. In più la consapevolezza dell'esistenza di un sistema didattico più adeguato rispetto a quello italiano per quanto riguarda il mercato del lavoro. Sicuramente all'estero ho potuto comprovare che lo studente ha molta più facilità nel poter trovare lavoro e anche molti più strumenti, e questo mi ha portato appunto in varie nazioni in Europa a trovare facilmente lavoro. E come scegliere i corsi migliori per un master all'estero? Hai magari anche dei siti da consigliare, Flavio? Sì, nel mio caso ho studiato management, quindi ho sfogliato sia il Sole 24 Ore ma anche il Financial Times, e ho visto quali sono le business school più titolate per vari criteri. E in quali paesi? Ho quindi contattato. In quali paesi? In Europa. In Europa, perché non volevo allontanarmi dall'Europa, anche per formazione culturale, e quindi in Spagna, in Francia, in Italia. Ho trovato la business school che faceva per me, perché aveva 5 campus in 5 nazioni distinte, quindi anche con un tipo di formazione europea che mi ha consentito di appunto imparare più lingue e avere comunque una formazione manageriale. La tua vita professionale ha preso poi la strada del settore bancario e della consulenza, con alcune esperienze in startup, prima di fondare la tua di startup Mamma Pack, in un'idea che ha molto a che vedere con gli italiani all'estero. In che senso? Spiegaci meglio. Essendo italiano all'estero da ormai 15 anni, questa idea imprenditoriale è nata da un bisogno personale. Si tratta di un supermercato online per gli italiani all'estero che vende appunto la spesa al giusto prezzo. Si possono trovare 10.000 referenze, alimentari, cura della casa, igiene personale, infanzia, ed è dedicata a tutti gli italiani all'estero che vogliono fare una spesa conveniente, economica e soprattutto riceverla in 48-72 ore a casa. È il miglior modo per rendere felici gli italiani ogni giorno. Soprattutto se c'è un po' di nostalgia di casa, possiamo dire. Allora, Flavio, andiamo con ad analizzare le opportunità di lavoro a Parigi, avendo tu alle spalle diverse esperienze. Partiamo dalle figure manageriali. Tu scrivi a Generazione Mobile @radio24.it che è complicato trovare lavoro da manager nella capitale francese. Hai allora dei consigli pratici sui settori dove i nostri manager, giovani manager, hanno più possibilità di farcela? I settori in cui mi sento di poter dare una risposta affidabile sono quelli della ristorazione e quelli della sanità. Sicuramente gli italiani hanno altissime competenze per quanto riguarda la ristorazione e bisogna approcciare questo mondo in maniera classica, ovvero presentandosi al ristorante, presentandosi allo chef, anche tramite i social network. E poi c'è quello della sanità, dove vedo tanti amici che sono qui a Parigi proprio perché possono avere molte più opportunità rispetto all'Italia. Quindi in questo caso... C'è anche qualche sito che magari consigli per cercare lavoro in Francia? Dei veri siti che sono dei veri e propri aggregatori non ci sono, quindi io consiglio 3 canali per trovare lavoro in Francia del management: LinkedIn sicuramente, il sito diretto dell'azienda nella quale si vuole lavorare, ma il canale migliore è quello appunto del network, cioè i canali personali, quindi scrivere ad amici oppure persone che stanno svolgendo quel lavoro e quindi chiedere informazioni. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Flavio Nappi, imprenditore 35enne di stanza a Parigi, che ha creato una startup dedicata proprio ai connazionali espatriati. In questa puntata Flavio non solo ci racconta la sua idea e come anche potreste approfittarne, ma ci guida in un ipotetico e virtuale trasferimento nella capitale francese, soprattutto qualora aveste un'idea imprenditoriale da sviluppare. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Veniamo all'ecosistema startup francese, tu lo definisci vivace, in che senso? Ci sono le condizioni per poter fare sinergia con le altre aziende, quindi per trovare personale, per partecipare a conferenze, per avere una formazione continua, per avere tanti stimoli. Ci vogliono gli strumenti per fare questo e io credo che gli incubatori siano necessari per sviluppare l'ecosistema startup, che in Francia è molto vivo. Andiamo nel dettaglio, co-working, incubatori, business angels, pullulano, quali i migliori, quali consigli anche a Parigi? Consiglio sicuramente per iniziare una startup di non rimanere a casa e di andare in un coworking. I più famosi sono Station F, che conta migliaia di metri quadri, Paris Tech Entrepreneur e anche la Blue Factory dell'OSP Europe. E quali sono le condizioni anche in termini di costi normalmente per poterli avvicinare e come entrare in contatto con loro? Per quanto riguarda i coworking sono cari i costi, perché bisogna pensare che una scrivania in centro a Parigi si aggira intorno ai 400 euro. Per quanto riguarda invece gli incubatori, quindi si porta un'idea e magari può essere incubata e quindi pagata anche dagli investitori, questo è più... È meno rilevante se ci sono le condizioni di investimento da parte degli imprenditori. Allora, andiamo con la vita in Francia e a Parigi. Qui tu metti in chiaro che c'è una specie di catena di Sant'Antonio in termini di trafila burocratica da completare prima di potersi sistemare. Ce la racconti in estrema sintesi questa catena? Quando si arriva a Parigi la cosa più importante è avere un indirizzo, c'è una fortissima interdipendenza per tutti quei servizi di base, c'è un'interdipendenza burocratica per tutti i servizi di base, ovvero dalla casa alla carta di credito alla carta della metro. Quindi quando si arriva a Parigi quello che bisogna chiedere è se qualche amico ti può fare quello che si chiama attestation de domicile, in modo tale da provare che tu risiedi oppure puoi ricevere posta in quell'indirizzo. Quindi è il primo anello di una catena ed è fondamentale. Anche molto complicato è trovare casa a Parigi e senza un conto bancario è complicato. Ci raggiunge ora in linea Romolo Ganzerli, Global Digital Marketing Director presso un'azienda svizzera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Romolo. Buon pomeriggio Sergio. Laurea in ingegneria dell'organizzazione d'impresa al Politecnico di Torino, dopo le prime esperienze tra venture capital, IT e consulenza sei arrivato a ricoprire il ruolo di direttore digital marketing. Allora spieghiamo dove e di cosa ti occupi. Sì, attualmente mi trovo a Ginevra, più precisamente dal 2015, e lavoro per una multinazionale nel settore dei beni di largo consumo e volendo riassumere il lavoro che svolgo in una frase, diciamo che con il mio team cerchiamo di fare in modo che quante più persone possibili possano entrare in contatto con i brand che distribuiamo, interagiscano con i contenuti che creiamo, entrino a far parte del nostro ecosistema digitale che è fatto di siti web, canali social e soluzioni studiate ad hoc per il nostro target, infine con l'obiettivo di farli diventare nostri clienti. Il legame che ti lega a Flavio è rappresentato dal fatto che tu sei socio della startup MamaPack. Concentriamoci ora sui tuoi consigli per lavorare nel settore del management e in Svizzera. Quali sono i lati positivi della vita lavorativa nel paese elvetico? La Svizzera è senz'altro uno dei paesi con la migliore qualità della vita, lo dicono tante classifiche e questo lo rende un paese estremamente attraente dal punto di vista lavorativo ed infatti sono tantissimi quelli che decidono di spostarsi qui. Gli italiani sono circa il 15% degli expat in totale, più di 300.000 persone, e volendo fare un click su quello che significa qualità della vita in questo contesto, diciamo che le principali attrattive sono il salario medio, che è decisamente più elevato rispetto all'Italia, una disoccupazione, un tasso di disoccupazione estremamente basso di circa il 2%, servizi pubblici, livello della sanità e dell'istruzione tra i migliori in Europa, orari lavorativi nella norma, tanto rispetto per l'equilibrio tra vita e lavoro, oltre al fatto ovviamente che sia la lingua, l'italiano è parlato da circa il 10% della popolazione, che la prossimità geografica la rendono una destinazione piuttosto attraente per gli italiani. Ovviamente non tutto è rose e fiori, ci sono anche lati negativi, ma abbiamo poco tempo. Ti chiedo in sintesi le città più interessanti dove cercare lavoro in Svizzera. Senz'altro partirei con le città principali, che nell'ordine sono Zurigo, Ginevra, Basilea, Berna e Lugano. Tuttavia ogni piccolo centro ha un po' la propria eccellenza e il tasso di disoccupazione è generalmente molto basso dovunque. E siti che consigli per cercare lavoro in Svizzera nel settore del management? Ce ne sono di particolari? Allora, LinkedIn senz'altro un must, in grande crescita, così come Glassdoor. anche quello in grandissima crescita. Se si cerca invece piuttosto lavoro in piccole e medie imprese locali, Indeed è un'ottima soluzione, e come sempre in tutti questi siti il consiglio è quello di impostare sempre un alert che corrisponda alle condizioni di lavoro che si ricerca, così da essere tra i primi a fare domanda, visto che il numero di persone che di solito applicano a questi lavori è molto elevato. Grazie a Romolo Ganzelli. Abbiamo la nostra domanda di rito per Flavio Nappi: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Il primo consiglio pratico è chiedere consigli, quindi assolutamente contattare via social network oppure via mail coloro che già svolgono una professione oppure la vita all'estero, per chiedere delle condizioni di vita, delle condizioni lavorative, delle condizioni con le quali si passa il tempo libero. Quindi assolutamente usare la giovane età come palestra per poter fare un'esperienza all'estero. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia, Said Yofkar di Eures Italia. Oggi parliamo di un importante evento che si svolgerà in Umbria presso il centro fieristico di Bastia Umbra, Perugia, e dove la rete Eures Italia è presente con i propri advisors di 4 regioni del centro Italia, che con decine di offerte di lavoro per chi cerca opportunità occupazionali in Italia e all'estero sono pronti per dare il loro supporto per chi vuole fare un'esperienza di lavoro all'estero, in particolare verso paesi scandinavi, Svezia, Finlandia, Danimarca, per lavori stagionali, ma ancora verso paesi mediterranei, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, per settore e per periodo estivo. A porte aperte 2020 è la convention per i professionisti della ristorazione e dell'ospitalità, che si svolgerà dal 17 al 19 febbraio con diverse manifestazioni e contest di show cooking in programma, ma il fatto più importante è che sono presenti oltre un centinaio di aziende italiane e straniere in cerca di personale con competenze e esperienze in settore di ristorazione e ospitalità. In questa occasione la rete Eures Italia svolge un ruolo non solo per quantità delle offerte presenti, ma anche come facilitatore di matching tra chi offre e chi cerca un lavoro. Le informazioni più dettagliate ovviamente lo troverete sulle pagine Facebook e Twitter di Eures Italia. Internet Point. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Vi parliamo oggi di un'interessante iniziativa dell'Emilia-Romagna che, negli ultimi mesi, è letteralmente andata a scovare i suoi giovani talenti in giro per il mondo per promuovere con loro la rete di centri e imprese regionali specializzati in ricerca e innovazione, con l'obiettivo ovviamente di avviare scambi e collaborazioni. Ci spiega tutto Lara Porciatti, referente del progetto On The Move. L'idea nasce per creare una community di emiliano-romagnoli di nascita o di formazione con alte competenze che studiano o lavorano all'estero. Stiamo parlando di studenti universitari, dottorandi, ricercatori, professionisti e start-upper, e al tempo stesso promuovere le relazioni di questi giovani con il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione. Avete una stima di quanti giovani emiliano-romagnoli con queste competenze sono all'estero? Allora, dal punto di vista dei dati della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, sappiamo che la fascia più rappresentata attualmente è quella tra i 18 e i 39 anni, proprio nel periodo più recente della migrazione, e i paesi cui vengono appunto scelti da questi giovani sono l'Europa come meta preferita e successivamente l'America, Stati Uniti, Brasile e Argentina. Quali sono stati gli eventi principali che avete realizzato? In quali paesi siete stati incontrando questi ragazzi? Allora, nel tour internazionale di On The Move, nel corso del 2019 abbiamo visitato 5 città europee: Bruxelles, Londra, Berlino e Barcellona, e San Francisco come città extraeuropea. Abbiamo incontrato e individuato una rete di 300 emiliano-romagnoli di nascita o di formazione con le caratteristiche appunto di alte competenze, come prima dicevo. Nel corso poi del 2020